6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio número 510 de las 6 de la mañana. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo este nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente formulada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. Praca lubi činu, to pukano lukano si digu. Cum pojmo cumpa la vrcari už opi deši. Praca živa njuni, lumaru ću se prikreši sini. Cum pojmo cumpa gali, spatja ma zgarari. Pište i undi živa njuni, kašta meno nu su dori sjeti. Cum pojmo cumpe tuti, jeftini bandjeri. Pi lumaru ća tuti, quanti ni pati lukori. Da domenica tra casa non ci posso trovi a stari. A già sciri, a lukam, pe lumaru ća già ti pari. Anki mutili magi, niga, anna spitti rari. Cumpamo cu tutto lukori, vina squadra eccezionali. Je zittata la partita, lui è pusa cammina. Lina fascia l'odra, lu palloni sempre gira. Intanto noi cantari, senza fermarci no. Fatevi sognare, Maruggio faccio un gol. Zumpa di res, è arrivato, senti bueno. Uomo pompa, lotta razzoli, tifosi. È venuto qua, bu canta, maestra camu. Bu zumpamu, capi buio, lì bu conta. Voi spaccati, dita, fascia nudi, guarda una spetta. Uomo casi, ozza, come quando brucia stroma. La curva casta ferve, smetta, cu si segna prima. Partimo in contropiedi, c'ha la zona, si standrizza. Partim da cannonata, in porta, castrazza la rezza. Zumpamo, zumpa, pani, primula di cosci. Brazza vicino dopo cano lucano ci dico zum poemo zuppa l'avversario sotto i tesci grazie sti bagnoni lumaru c'è sempre crescissimi zum poemo zuppa cali spatti a masgarrari viste i 11 bagnoni casta meno non sudori senti zum poemo zuppa e tutti gli estri bandieri qui lumaru c'è tutti quanti di batti lucori gol yeah ama segnato uno la parte di studi fumalato questo sport facimo lumaru giù di fauni ma nell'aria za un bom bom bom sta su una mesta cantamo e vejo friturare e pura bascia mare a ruota bandieri giallo-blu lu fuego che sta brucia lu maru giù che sta sciola bururu insieme a voi pista squadra tamo l'anima passavimo sta palla buru via già a segnare con tutti li maru giù si qua la ma cantare la squadra ne emoziona e non tegno più parole di nimo lu maru giù e lu pallone tra lu cuori la difesa sempre in guardia lu portiere sarà ginesca ti ladra e quarti parti una bomba che si innesca anzi pronto l'attaccante che segna con la mia questo gol è più bello di tutto di prima zumpamo zumpapa nei primula di cosci brazza lu vicino dopo cano lucano ci dico zumpa e mo zumpa l'avversario sotto i tesci grazie sti bagnoni lumaru c'è sempre crescissimi zumpa e mo zumpa cali spatti a masgarrari viste i 11 bagnoni casta meno non sudori senti zumpa e mo zumpa e tutti gli estri di bandieri qui lumaru c'è tutti quanti di batti lucori cammina se mila manfari cantiamo l'ansieme per gli giocatori castena la squadra è proprio speciale facciamo la prima per non si segnare dico zumpa e non ti fermare per gli giocatori mo serve calorica forza maroggio ma sempre che dare di quanto manate che si sta mori zumpa mo zumpa pani primula di cosci brazza lu vicino dopo cano lucano ci dico zumpa e mo zumpa l'avversario sotto i tesci grazie sti bagnoni lumaru c'è sempre crescissimi zumpa e mo zumpa cali spatti a masgarrari viste i 11 bagnoni casta meno non sudori senti zumpa e mo zumpa e tutti gli estri di bandieri qui lumaru c'è tutti quanti di batti lucori Pani primula di cosci, brazza lu vicino dopo cano lucano ci dico zumpa e mo zumpa l'avversario sotto i tesci. Grazie sti bagnoni lumaru c'è sempre crescissimi zumpa e mo zumpa cali spatti a masgarrari viste i 11 bagnoni casta meno non sudori senti zumpa e mo zumpa e tutti gli estri di bandieri qui lumaru c'è tutti quanti di batti lucori. Pinno paesi modo speciali, state nella da regge, te la sta accanto un umone, lo ribellino, lo Federico e la Barbara. Senti la buona, siamo vagnuni. Amo tu paesi e tutto che sta intorno, lo pensiero tuo sempre più profondo, le sue tradizioni, perfino i problemi, ma è tutto questo cani faci stare buoni. Amo tu paesi e tutto che sta intorno, lo pensiero tuo sempre più profondo, le sue tradizioni, perfino i problemi, ma è tutto questo cani faci stare buoni. Ogni cosa che stai è su subito ufficiali. Quando la vedi non la puoi più scordare. Abbascia Maruggio e Don Caro, e vivimo tutto do Salentino e mangiare il genuino. Tenimo tradizioni vecchi come Petra. Del tuo paese son tu io un profeta. I nostri sapori sono conosciuti all'altri parti. E pillo reggae, siamo tutti pacci. Appena mi oso sento l'aria come fresca. Faccio un respiro che mi dai alla testa. Che si di casa a tutti i lori. E senti sprigionar forti su calori. Nu saluto vai agli nostri maestri che creano sempre porti e finestri. Uno speciale all'amico Severino, da quando sta grida capisci che è mattino. Mezza la piazza punto di socialità, ogni cristiano la sera sacchiata. Tra le sezioni a parlare o picchiapatia, questa è di Maruggio la filosofia. Sto paese è proprio proprio bello, ogni pista te flippa il cervello. Non c'è cosa che te faccia stare meglio, quando mi lontano subito voglio avvegno. Amo il tuo paese e tutto che sta intorno, il pensiero suo sempre più profondo. Le sue tradizioni, perfino i problemi, ma è tutto questo che ne faccia stare buoni. Amo su paesi e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo. Le sue tradizioni, perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. La settimana è lunga e tutti amaci fariari. C'entra la merda all'Ilva o in casotta soli fuori. Ci non ti piace, puoi buttare lo sangue a militari. Nessuno qua regala si lupani da sudare. Privata la domenica spicciata la patia. Di la chiesa al documento senti suona a mezzadia. Do suono di campane si accompagna con l'ardore. Ti cucina ducati entra le case e si da fuori. Tu bell'ardore non li lascia le campane soli. Sopra le banche che ne di corpette di bracioli. Arrivata l'ora tutti in casa che nessuno è fessa. Pille pizzeria di cinca sia don catene la sa. Lassamolo mangiare che la panza non mantene. Annanzi mo tiramo con cultura e tradizione. Non so come una volta che ne stiamo di pensione. Grazie alle vizi modi e alla globalizzazione. A Natale per esempio lo bambino si scarfava con le fuochi di Cristo piccino e cinca si abbabbava. Mo pille effetto serra di locauto non c'è come regalo. Fuego brucia modo basto non ti do fracere. Tu tempo si acciuva se non ci torna a reto filo. Stiamo con le piede in terra e non piamo a duelo. Rispetto a cinque questi usanzi buoni dell'assato. Invece tretti tretti con li distruggimo ma arrivati. Amo il tuo paese e tutto che sta intorno. Lo pensiero suo sempre più profondo. Le sue tradizioni perfino i problemi. Ma è tutto questo che ne faccia stare buoni. Amo il tuo paese e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo, le sue tradizioni, perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. Citi citi non voglio un picca di partitico silenzio, sulla faccia vagnone che sta canta qua a mienzo, a sicci, sentiti cudu che sta pensu, calo corina più su paesi e infermento. Mi ricordo bueno il primo giorno che già venuta e dopo 80 anni e ricordi non sono mai stufa. Per stare al mi sento tessere posseduta, con l'anima sua terrona che entra mi sa brucia. Passere entra sul posto tutta la mia vita, c'è così tanto mai ma già divertuta. Insieme gli frati miei sentimo lo reggae a rota, e quando lo disco spiccia lo intimo un'altra volta. Sì, però rebel sound son la realtà, e la loro musica mai a spiccia. Illustra vicina carosa monia qua, senti sti bagnoni e tutto cambierà. Amo il tuo paese e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo. Le sue tradizioni, perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. Amo il tuo paese e tutto che sta intorno, lo pensiero suo sempre più profondo. Le sue tradizioni, perfino i problemi, ma è tutto questo che ne fa di stare buoni. beef fly rice, chicken curry, nasi lemak. All you want.